Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Alessandro Dell'Acqua, stilista, 52 anni, napoletano, non può rinunciare al suo cornetto d'oro, la pizza e al cinema. Dopo il diploma all'Accademia di Belle Arti a Napoli ha un solo obiettivo: fare lo stilista. Giovanissimo si trasferisce nella città della moda, Milano. Inizia una lunga gavetta con i più grandi nomi della moda italiana, prima nell'atelier di Enrica Massei, maestra del prêt-à-porter, poi Pianforini per imparare i segreti della maglieria e ancora Iceberg, La Perla, Malo e tanti altri. Nel 96 nasce la sua prima collezione Alessandro Dell'Acqua, che cresce a successo, ma poi lascia tutto, vince, perde e ricomincia. Nel 2010 ritorna e vince ancora con un progetto tutto suo, il progetto N21. Perché N21? Buongiorno. Intanto. Numero 21 perché è la data del mio compleanno. Quando io ho perso il mio nome non potevo usare più né il mio nome né qualcosa che somigliasse al mio nome. Quindi ho deciso su un numero perché era la data del mio compleanno, una nuova vita per me. Nato il 21. Esatto. Superstizioso, sono da buon napoletano. Molto superstizioso. Senta, abbiamo detto vince, perde, ricomincia. Ecco, quando ha pensato... è finita, non ce la faccio più. Quando? L'ho pensato quando mi hanno un po' tagliato fuori da quello che era il mio marchio, nel senso, avendo io il 30% e gli altri 70%, a un certo punto hanno deciso di farmi fuori. Lì le hanno tolto il nome. Esatto, mi hanno tolto il nome. Ho perso il mio nome, sì. Eppure a lei era già capitato di dover cominciare, ricominciare tutto da capo. Perché? Ma probabilmente sono state delle mie scelte sbagliate con dei soci, forse è stata mia colpa quella di sbagliare i personaggi, però la voglia di lavorare, di questa passione per la moda era talmente forte che mi sono buttato sempre a capofitto sulle cose. Senta, signor Dell'Acqua, è stato difficile non lasciarsi andare alla depressione, eh? Sì, perché ti abbandonano tutti quando non sei più sulla cresta dell'onda, c'è il vuoto intorno, quindi per 6 mesi io non ho lavorato, è stato veramente un po' difficile. Complicato, ha avuto la tentazione di lasciarsi andare. Sì, un po' sì. Ma che cosa l'ha aiutata a resistere? Ma sinceramente la mia grande ambizione, la passione che ho per questo lavoro, io... sarei ritornato a fare l'assistente piuttosto che non fare più, esatto, quella. Ecco. Esatto. Ha ripartito, ma poi 4 anni fa ancora una volta ha dovuto lasciare il suo nome ad altri. Mi racconta bene questo passaggio che ha accennato. Perdere il proprio nome, cosa vuol dire? Io mi sono sentito come se perdessi un braccio, un pezzo della mia vita, un pezzo del mio corpo. Ma per una ragione di percentuali. Sì, esatto. Io avevo il 30 e i miei ex soci avevano il 70. E le hanno voluto prendere il suo nome e usarlo. Sì, a un certo punto hanno deciso che io non andavo più bene per questo tipo di situazione e volevano comunque continuare facendo una cosa col mio nome senza di me. Ma che fine ha fatto commercialmente parlando il suo nome? Non ha funzionato. Quel discorso lì. Quella è la sua vendetta. Esatto. Diciamo di sì. Senta. Ma che cosa le ha fatto dire? No, io riparto. L'ambizione, diceva. Sì, l'ambizione, la passione, la voglia comunque di non arrendersi, la voglia di ricominciare di nuovo anche a una certa età, perché ecco, non è facilissimo. Ecco, infatti glielo faccio raccontare perché è interessante, soprattutto di questi tempi, una persona in un mondo così, così particolare come la moda, che a 50 anni riparte, ce la fa, inventa N21 e qualcuno ci crede. Ma prima quante porte in faccia ha avuto? Tantissime, nel senso che quando ho deciso di fare questo progetto sono stato da tutte le più grosse aziende italiane, comunque era un nome già conosciuto nella moda, ho avuto solo porte in faccia da tutti, da tutti. E la più dolorosa qual è stata? Ma è stata una grossa azienda in cui io credevo molto, nel senso ero convinto che potesse ricominciare la situazione mia con loro e invece mi è stato detto no, in questo momento siamo interessati agli stilisti stranieri ma non agli italiani. Ma non vuol dire chi è, Vabbè. Senta, signor Dell'Acqua, adesso invece ha vinto. Ecco, che ruolo hanno avuto i social network nella sua storia, nella storia della sua rivincita? Ma è enorme, nel senso che io prima non seguivo molto questa situazione dei social network, poi ho cominciato da Twitter, poi passando a Instagram. Devo dire che a livello mediatico mi ha aiutato tantissimo. Ma è stato vero che prima di scoprire la rete lei quasi quasi non conosceva neanche il computer? Sì, è vero, io non sono mai stato tecnologico, quindi per me ancora oggi per forza. Il computer è ancora un po' un mistero per me, ma il cellulare è un nemico, esatto, cellulare, esatto. Più friendly. Sì. Ecco, senta. Ma è quindi è stata una conversione di necessità, diciamo. Sì, in un esattamente. Certo modo. E non potendo fare usare pagine pubblicitarie o certo, altre cose, ho usato questo nuovo metodo per far conoscere il marchio. Va bene, necessità virtù. Virtù, assolutamente. Crisis opportunity. Esatto, esatto. Va bene. È dovuta a qualcuno questa conversione oppure no? No, nel senso tutta che... interiore sua. Sì, assolutamente. Quando ho capito che c'era qualcosa che si stava muovendo bene con i social network, ho detto proviamo a fare questa cosa. Senta, ma salire, scendere, poi risalire, come è capitato a lei, cosa le ha fatto capire che prima non aveva capito? Ma intanto sono diventato più saggio, nel senso prima mi buttavo molto nelle situazioni, adesso ci penso, conto fino a 30 prima di prendere decisioni. Ecco, dovesse dire qual è la qualità che l'ha aiutato di più in questa sua avventura. Qual è stata? Ma secondo me la perseveranza, nel senso che io comunque su questa cosa ci credevo. La passione, sì, assolutamente. Ecco, il difetto invece che vorrebbe non aver avuto. La timidezza mi ha bloccato molto in questi anni. Non sono mai stato uno stilista che si è imposto e lanciato molto nel mondo dei luccichini. Siamo sempre stato un po' nell'ombra. Ecco, ma insomma, ha detto, la rete le ha dato quello che non aveva prima, cioè la visibilità. Ma come? Ma cioè io in realtà la visibilità sulla rete l'ho messa attraverso tutto quello che usciva delle mie cose e la gente ha cominciato a seguirmi in modo interessato e da lì è nato poi tutto un susseguirsi, cioè, di cose. Cioè le metteva sulla rete delle foto dei miei vestiti, delle mie cose e da lì è nato proprio anche l'interesse da parte dei clienti, dei negozi e del cliente finale. Ecco, signor Dell'Acqua, il successo sul web, l'ha detto, gli ha portato nuovi clienti. E come testimonial anche altro tipo di testimonial. Quali sono i testimonial più efficaci sul web? Ma in questo momento sono molto, molto importanti, sono molto seguiti i blogger di moda, nel senso che loro sono quelli che hanno più follower in questo momento, quindi sicuramente quelli che ti danno più visibilità. E incidono molto sul mercato suo, ma abbastanza, cioè. Abbastanza. Ecco, ma è complementare o alternativo? Nel medio periodo la vendita sul web della moda ai circuiti tradizionali? Ma secondo me in questo momento è abbastanza alternativa, può essere un'alternativa interessante, nuova, e non è ancora arrivato completamente questa cosa, però è una cosa che comincia a interessare. A crescere. Sì. Ecco, signor Dell'Acqua, lei paga i blogger per indossare le sue felpe come facevano gli stilisti con i testimonial tradizionali oppure no? No, assolutamente. Perché? Assolutamente no. Io posso regalare la mia felpa, ma no. Non pagare per questa cosa. Io credo che se uno abbia voglia di mettere una cosa, la deve mettere senza essere imposta questa situazione. Cioè, però, gli atteggiamenti quindi di divismo delle modelle che diventano star come Naomi Campbell, eccetera, sono tramontati secondo lei? Io credo che in questo momento non c'è più quella moda lì, nel senso sia un po' finita. Cioè la moda spettacolo, quella inventata da Versace, che ha fatto bene alla moda quella... Ha fatto benissimo in quel periodo, perché ha fatto conoscere tantissimo gli stilisti, che erano un mondo un po' sconosciuto per la maggior parte delle persone. Però poi dopo è stata un'arma a doppio taglio, perché c'è stata la rivincita delle modelle che sono diventate molto più famose degli stilisti e dei vestiti. Cioè erano, signor Dell'Acqua, erano più importanti appunto le Naomi Campbell eccetera che non gli stilisti che le vestivano. Esatto, poi alla fine c'è stato questo movimento di stilisti magari anche poco conosciuti che prendevano queste modelle strapagate e facevano parlare di loro attraverso le modelle ma non attraverso il loro talento. E quindi lì insomma è un ciclo che si è concluso, l'ambiente della moda in qualche modo si è dato una regolata insomma. Sì, credo che comunque dopo quel periodo così forte c'è stato un momento di crisi e quindi la moda ha dovuto per forza cambiare un po' l'atteggiamento. Insomma, i tempi del Diavolo Veste Prada sono finiti? Io spero proprio di sì, mi auguro anche di sì, perché era un periodo un po' strano per la moda. Perché strano? Perché era un po' troppo pretenzioso. Secondo me questo è un lavoro come un altro, nel senso che bisogna farlo con grande passione senza guardare troppo agli eccessi e divertimenti e delle cose. Bisogna veramente crederci in questo lavoro, ci vuole talento in questo momento, come in tutte le cose, e meno solo l'apparenza. Meno glamour, sì. Ecco, signor Dell'Acqua, i grandi giornalisti del settore riescono ancora a determinare il successo di uno stilista oppure no? Ci sono certi che ancora riescono, sì. Ma nel mondo? Sì, nel mondo Anna Wintour è ancora una che decide, e Franca Sozzani è ancora molto molto importante per poter decidere se uno stilista vale la pena di essere guardato o meno. Diciamo che queste due sono le più importanti e le più anche ascoltate e guardate. E l'Apollo? L'Apollo è in Italia, credo sia assolutamente la più seguita. Numero uno, assolutamente. Senta, per lei chi è il più grande stilista oggi? Oggi sicuramente la signora Miuccia Prada. È una che la ispira in qualche modo, no? Cioè, c'è uno stilista che lei considera un maestro da imitare? Sì, io adoro, ho adorato Saint Laurent, però in questo momento io veramente rispetto molto il lavoro che fa Miuccia Prada, perché rischia ogni volta sulle cose, non è mai scontata, ed è una che va avanti nonostante potrebbe fare delle cose normalissime, talmente ricche. Esatto. E invece dà talmente tanto alla moda, che è veramente un esempio da seguire per i giovani. Ecco, ma per esempio un'avventura come quella della Barcavela serve o no? O è una passione a parte? Ma secondo me è una passione che ha portato anche una popolarità al marchio. Nel mondo? Sì, esatto, però credo che sia più una passione che una... Che non un investimento strategico. Ecco, il suo è un mestiere che si può insegnare a scuola oppure lo si ruba nella bottega? No, io credo che bisogna rubarlo, bisogna assolutamente rubarlo in bottega. Andare a bottega? Assolutamente, assorbire il più possibile, lavorare con delle persone, ascoltare tanto, perché è quello che ti fa poi veramente capire delle cose. E le scuole di moda costano tanto? Costano tanto, poco. Non hanno delle grandi selezioni, prendono un po' tutti, bisognerebbe fare delle selezioni sui talenti veri e portarli avanti e poi inserirli anche nel mondo del lavoro, perché altrimenti la scuola non serve molto. Senta, signor Dell'Acqua, lei è stato adesso nominato direttore creativo di Rocase a marzo, a Parigi. La sua sfilata è stata un trionfo, così ho letto sui giornali. È finita la rincorsa adesso? Ma no, non è mai finita, nel senso, io sono sempre sul chi va là, perché mi è successo già troppe volte che dico magari può succedere ancora. Cioè, adesso ci credo, esatto, poi non è vero. Esatto. Ma Parigi è stata una grande emozione. Sì, Parigi è stata la prima volta che sfilavo a Parigi, è stata veramente un'emozione diversa. Diversa perché? Perché Parigi veramente respiri un'aria molto differente da quello che succede a Milano, purtroppo. Io ma sono mi dica molto in che senso? Cosa ha trovato a Parigi che a Milano non c'è? C'è ancora molto interesse per quanto riguarda la moda, c'è tanta fermento su quelle cose, c'è molta... Purtroppo a Milano questa cosa c'era negli anni 80, io l'ho vissuta, adesso molto meno. È sempre il tempio della moda Parigi, insomma. Purtroppo sì, io vorrei che Milano ritornasse un po' ad essere quella di una volta. Ma è una competizione che per adesso è a vantaggio di Parigi, insomma. Secondo me sì. Senta, a proposito di Milano, appunto, se non sbaglio, nell'Expo del 2015 la moda non è stata coinvolta. No. Ma la moda è il Made in Italy, perché? Ma secondo me, infatti, la moda dovrebbe essere sempre coinvolta in queste situazioni dove arriva tanta gente, certo. Perché comunque tira molto, è ancora un fenomeno importante per l'Italia. Mi dispiace, la moda ultimamente è veramente un po' messa da parte. Però è una delle voci più attive della nostra bilancia commerciale. Certo. Insomma, la follia, allora lasciarla fuori dalla... Lasciarla fuori, secondo me, in questo momento non è la cosa più intelligente. Senta, ma signor Dell'Acqua, c'è il rischio che nella moda ci siano troppi artisti e pochi imprenditori? Ma direi che ultimamente ci sono stati anche fin troppi imprenditori e pochi artisti. Ah, sì. C'è stata la moda degli imprenditori, quindi ce ne sono stati tanti ultimamente. Io credo che invece bisognerebbe puntare di nuovo un po' sugli artisti veri, sui giovani talenti, che è quello che manca un po' in Italia. Giovani anche non tanto giovani, diciamo. Sì, esatto. Senta, no, perché questo giovanilismo poi è oltre misura... Sì, a volte non è che funziona sempre. È anche banale, certo. Insomma... Come diceva quello là, se uno è biscaro da bambino, resta biscaro anche da grande. Assolutamente. Senta, la moda è creatività, colori, linee, però è anche molto tessuti. Sì. Beh, mi pare che nei tessuti però la ricerca sia un po' fermata. Si è un po' fermata, no? Ultimamente si è un po' fermata. Prima i tessutai facevano delle ricerche quasi affannose. Adesso è un po'... Ma perché probabilmente questa situazione della crisi ha un po' bloccato un po' tutto. Però invece il grande business si è sviluppato negli accessori. Sì. Continuerà? Secondo me per un periodo abbastanza lungo gli accessori la faranno da padrone. No? E lei? Anche lei si butta sugli accessori? Io mi sto cominciando a muovermi anche su quel campo lì. Sì. Senta, lei dice, sono parole sue, che a volte è più difficile trovare il maglione grigio perfetto diritto che non il capo strampalato. Cosa vuol dire? Perché a volte io cerco delle lui, cose... Lui, voi non lo vedete, ma c'ha un maglione grigio, veramente un punto di grigio perfetto. Che è Prada. No, nel senso che molte volte io cerco delle cose normali. E a volte nella moda si dimentica un po' questa cosa, la normalità e le cose fatte bene, si cerca di fare sempre delle cose strane per accatturare il pubblico, per accattivare un po' il pers- però a volte ci si dimentica delle cose più basiche, che sono quelle più importanti poi. Ecco, lei ha detto che negli anni Ottanta si seguiva il diktat della moda, che adesso invece le scelte sono più personali e più consapevole, ma è sicuro di questo? Sì, io credo che è finita un po' la moda, nel senso quando lo stilista dettava assolutamente legge sul popolo. Oggi credo che sia più il mercato che detta legge allo stilista. Nel senso... Abbiamo un nostro lettore che dice anche Steve Jobs è stato esautorato dai soci, è buona compagnia. Ecco bene. Senta, il fatturato dell'abbigliamento online è cresciuto del 79% nei primi 2 mesi rispetto allo stesso periodo del 2013. È un trend oramai che si va a consolidare? Io credo proprio di sì, ormai sì. È diventata un'abitudine comprare online, sta diventando veramente una cosa molto importante, credo che sia un fenomeno che andrà avanti molto bene. E quindi il futuro successo della moda è legato alle vendite? Credo proprio di sì. Ecco, però le grandi griff del lusso si muovono con molta prudenza sull'online perché vogliono difendere il brand, perché hanno paura di questo, signor Dell'Acqua? Eh? Ma probabilmente sì, c'è una difesa un po' del marchio, quindi alla fine mettono meno le cose online per non sporcare troppo il marchio. Hanno paura, sì, esatto. E hanno torto o ragione? Ma secondo me non c'è veramente un torto nella ragione, no. Bisogna ancora un po' capire come funziona bene questa cosa. Senti, ma è vero che non si separa mai della sua matita? Sì. Uno davanti. Perché? Sì. Viene in mente una cosa, la... Perché è stata un po' quella che mi ha salvato la vita. Salvato la vita, sì. E quindi le riconoscenze, sì, esatto. Diciamo. Molto. Senza matita non ce la fa. Senta, ma la sua è una produzione tutta made in Italy? Sì, assolutamente made in Italy. Cioè nel senso che è tutto, tutto prodotto... fatto in Italia. Dove? A Cattolica, dal gruppo Gilmar. Ah. Senta, ma c'è qualcuno che lei oggi vorrebbe vestire? Che gli piacerebbe proprio? Se avesse i vestiti miei, io N21 sarei felice. Non sono più molto attratto dal mondo delle celebrity, sinceramente. Non guardo più molto quella cosa lì. Un periodo per me era molto importante, adesso mi interessa meno. Senta, lei, signor Dell'Acqua, è nato in una famiglia di donne. Sì. Ho letto che queste donne nel pomeriggio d'estate si toglievano la gonna per riposare. E racconta che questo ha influenzato molto la sua creazione, il suo modo di immaginare le donne e vestirle. In che senso? È questo tipo di sensualità che è molto ricorrente al sud, che mi ha molto influenzato su tutto quello che è la mia carriera. Il color carne delle sottovesti, questo tipo di moda che all'inizio per me è stato, quando ho cominciato nel 96, ho fatto proprio quel tipo di situazione lì e la stampa era un po'... incredula su quella cosa, non capiva bene. Poi il color carne me l'hanno bocciato tutti, adesso è diventato un colore di moda. Vabbè, quando si è troppo avanti a volte non fa sempre bene. È pericoloso, esatto. Troppo avanti o troppo indietro, esatto. Un disastro. Bisogna cavalcare l'onda. Senta, signor Dell'Acqua, volevo dire, sono già 17 le aziende del settore che sono quotate in borsa e valgono più o meno 32 miliardi di euro. Lei ha mai pensato di quotarsi in borsa? No, assolutamente. Perché? Troppo piccolo, troppo piccolo. Sì, no. Sì, non punterebbe nessuno. No, chissà, non si sa mai. Senta, ma ci vorrebbe un polo del lusso in Italia come c'è in Francia? Sì, assolutamente. Assolutamente. Credo sia necessario. Ma chi potrebbe essere il capo di questo polo del lusso? Io credo... O della Valle, questa cosa qua. O della Valle o Bertelli. Loro potrebbero essere veramente quelli che potrebbero fare la differenza. Fa la differenza. Ma se ne parla, ne parlate o no? No. No, non se ne parla. Senta, ieri il presidente di Confindustria, Squinzi, nella sua relazione ha detto che nel mondo oggi ci sono 800 milioni di persone che stanno passando dalla produzione al consumo e cercano cose belle e ben fatte. parte. È lì il futuro del Made in Italy. Io credo proprio di sì. La qualità, bisogna ritornare alla qualità vera del Made in Italy, stando molto attento ai prezzi, perché quello è molto importante. Non bisogna mai esagerare in questo momento con la situazione dei prezzi, bisogna controllare molto quella cosa, avere un prodotto di altissima qualità a un prezzo giusto. Ecco, perché questo è stato veramente un rischio invece della grande moda, che belle cose, bellissime, però ma prezzi fuori dal mondo, quindi la gente non è mai riuscita ad arrivare a quella roba lì. Sì, erano lì per i vestiti devono cinema. Essere fatti per essere venduti, secondo me. Senta, della quale faccio un'ultima domanda. Oggi capita a molti, purtroppo, di perdere il lavoro a 50 anni, alla sua età. Lei, dopo averlo perso, l'abbiamo raccontato, lo ha ritrovato. Ecco, che cosa l'ha ritrovato con gli interessi, con grande successo. Ecco, cosa sente di poter dire a chi oggi, e sono tanti, si trovano in una situazione come quella che ha passato lei? Ma è importante veramente credere in se stessi, nel senso cercare di ricominciare a qualsiasi costo. Buttarsi giù, la depressione, la cosa non aiuta mai, nel senso bisogna veramente credere e cercare di andare avanti. So che sono parole un po' inutili, perché no, non è sempre così. Lei però l'ha fatto, per, lei è capitato, io lo dico per questione, ci sono passato, quindi ecco, non ho mai perso la speranza e la voglia di ricominciare, quindi, questa cosa. Umiltà ma determinazione. E poi devo dire che ti ridà una nuova vita, io mi sento come se avessi 20 anni adesso, perché ho ricominciato da capo, quindi mi si sento giovanissimo. Grazie e tanti auguri. Grazie a lei, grazie. Mix 24. Abbiamo ricevuto tanti sms per dell'acqua di ogni genere, ma uno mi ha colpito molto. Dell'acqua ha dato una ragione di vita a mia madre, sua ex dipendente. Volevo solo ringraziarlo. Fa piacere. Bello. Allora, che titolo faresti al faccia a faccia, Mario? Caro Minoli, te frego con una citazione cinematografica. Addirittura. Operazione Sottoveste. Carina, carina. No, qui invece Pietrangelo, operazione Burka. No, come? La moda è substanzia. È substanzia, mamma mia. Canzone, grazie. Ci fu qualche tempesta. Anni d'amore alla follia. Mille volte tu dicesti basta. Mille volte io me ne andai. Ed ogni mobile ricorda in questa stanza senza culla i lampi dei vecchi. Da sentirla tutta tanto è bella, Pietrangelo, oggi stupisci. È successo questo. In metropolitana c'era un signore seduto. Era immerso nella lettura. Si accorge di avere davanti a sé una signora in piedi, si alza per farla accomodare. E nell'incrocio tra il prego si accomodi e il grazie molto gentile, lei riconosce lui e lui, fulminato, ritrova lei. Perché è chiaro, sono due che si amano e che però non esistono. Lei fa per accarezzarlo, è un istinto di cura, scosta il colletto ingarbugliato con la giacca e scopre una garza. Lui, che viene svelato nella sua più profonda natura, immediatamente si fonde nel sangue, diventa lupo e lei luna e se ne vanno via. So che hai avuto degli amanti, bisogna pur passare il tempo, bisogna pur che per fortuna che c'è Buttafuoco. Per Mario, fortuna che sono le 9:30 e riesco a recuperare quest'altro. Vabbè, con le tue bolle, vai con le bolle. Il giacimento asiatico è pieno di petrolio. Io ho detto tutto ai giornalisti, stanno mandando qui dei fotografi. Dov'è Suellen? Dov'è Suellen? Ve lo ricordate Suellen? Questo? Certo. Dallas, dov'è Suellen? Vabbè, che volete fare? Dalla poesia di Buttafuoco al trivial della TV più commerciale degli inizi. E petrolio perché? E sanzioni? Allora, meraviglioso. No, business, please. Il numero uno della Exxon, uno dei giganti americani del petrolio, ha appena detto che no, non c'è alcuna sanzione da parte loro da applicare ai loro partner russi. Ah, ma guarda. Strano, no? Saggiamente cosa fa? Continua a fare i suoi affari con la azienda russa, la Rosneft, che è uno dei giganti, vicino all'isola di Sakhalin, diritti di esplorazione su 85.000 acri offshore, altri 11.3 milioni di acri nel Marnet, insomma. Insomma, non importa, non interessano queste... Segnalo notizia, queste sanzioni. La notizia di ieri, ma noi la segnaliamo perché seguiamo sempre, come dire, la parabola diplomatica. Putin ha tirato su i primi pilastri per l'Unione Euroasiatica, che è uno spazio economico, certo, e non solo, alternativo, comunque per controbilanciare l'Unione Europea con la Bielorussia e il Kazakhstan. 170 milioni di persone, 20% delle riserve di gas naturale, 15% di quelle di petrolio. Vabbè, stanno bene. Stanno bene. Bello, no, scusa, io lo so che però ogni tanto bisogna pur metterlo. E mentre corre così il coro dell'Armata Rossa, segnalo anche che la Cina ha un problema. Pronto? Sì, volevo capire la via, in che via è? Colini 21, zona Paolo Sarpi. Sarpi, ha detto Sarpi, ho capito bene? Allora, il problema non è questo. Questo era un frammento di Epifemili di Salvatore, molto carino, molto divertente. Il problema è un altro, Giovanni, l'inquinamento. Tu sai che io sono perché i cinesi facciano la loro rivoluzione industriale eccetera, però ci sono dei segnali in realtà che vanno tenuti in grande considerazione. Per esempio negli Stati Uniti da un po' di tempo hanno vietato la vendita di cibo per animali prodotto in Cina, infatti la produzione sta diminuendo sempre di più perché provoca malattie nei cani e nei gatti. Sta colpendo il turismo l'inquinamento, perché a Pechino i visitatori sono crollati del 10% nei primi 11 mesi del 2013. A causa dell'inquinamento alcune aziende se ne stanno andando, altre restano, ma per invogliare soprattutto i lavoratori più qualificati che vengono dall'estero danno addirittura il cosiddetto premio pollution, che è il massimo. Ora, insomma, diventeranno pure la prima economia del mondo, però anche il primo posto poi dove uno non vuole vivere. Se tu non ci crederai, Mario, no, ma Domenico da Udine ci scrive... Pietrangelo, veramente, tu racconti la quotidianità e tanti la dimenticano. Hai la capito? Ragione, non è solo poesia, è verità, è Salamini! Verità. È tempo di De Bello Fittico! È successa la guerra in casa Berlusconi ed è il caso di dire casa, non essendo più un partito, ma a maggior ragione sempre una faccenda domestica. E la guerra che ha avviato Raffaele Fitto, forte di tutte le sue innumerevoli preferenze raccolte alle europee e di quelle che sembrano non avere altro destino. Il monito che viene raccolto segretamente, riservatamente, ma ben certificato dal nostro Balzac, ovvero da Carmelo Lo Papa, che usa questo pseudonimo su Repubblica, è in una frase: traditori come Alfano vogliono esautorarmi. E ovviamente è finita tutta la vicenda delle primarie. Le primarie per fare che cosa? Andare a scovare chi e come e quando potrà nascere mai una realtà? Potrebbe essere quella dinastica? Potrebbe essere quella del cerchio magico? Ma quella dinastica ha detto di no. Quella dinastica ha detto di no. Però c'è sempre, come dire, la pratica dell'affiliazione. Ah, mamma mia! No, è terribile. È trattato di storia romana. Ah, sì, è vero. È la quota rosa di oggi. E sono intorno a me, ma non parlano. Ah, non abbiamo messo la canzone. E vabbè, oggi il mio pensiero va tutto, ma proprio tutto, ai ben pensanti, a quelli che, guardate, sanno solo loro cos'è giusto e cos'è sbagliato, cos'è normale e cosa non lo è, a quelli che si scandalizzano, poverini, per tutto tranne che per il dolore degli altri. Adesso si apre il dibattito sul divorzio breve, ci mancava, ragazzi, un altro bel dibattito. Il punto qual è? Il divorzio breve non va bene perché è troppo breve. Io invece penso che quello che non va bene è che molto spesso durano più le cause di divorzio che i matrimoni stessi. È così. Tutto il resto è noia. Non ho detto gioia, ma noia, noia. Italia. E oggi nel giorno delle conclusioni del governatore a Banca d'Italia, quelle annuali, noi manderemo nella seconda ora in onda uno speciale su Guido Carli, l'ex governatore della Banca d'Italia, con un'intervista a professor Giuseppe Guarino, di cui vediamo qualche estratto, fatta da Marina Milone. Allora, professor Giuseppe Guarino, le trattative condotte a Maastricht da Guido Carli restano un capolavoro? È stato un capolavoro, ma in effetti il capolavoro non ha potuto manifestarsi perché non hanno cambiato le regole. Cosa deve fare oggi Renzi? Io credo innanzitutto esigere l'applicazione del trattato, nel testo come è stato previsto dal trattato, non un finto testo, il testo dell'articolo 104c del trattato. Ritornare a Maastricht, quindi? Tornare 20 anni dopo è un po' difficile tornare, perché la situazione è assolutamente diversa rispetto a quella di allora. E allora che si deve fare? Bisogna intanto esigere l'applicazione del trattato e nessuno invochi delle norme che non ci sono nel trattato. Quindi una qualsiasi cosa venga imposta va verificato se è consentito dal trattato o no. Beh, molto interessante questo... Queste osservazioni di Guarino, vedremo le conseguenze nella seconda ora. Nella seconda ora racconteremo la storia di Guido Carli. Vi interrompo perché c'è un ascoltatore da Camaiore, beato lui al mare, che chiede a Pietrangelo: ma qual è il titolo della tua bella canzone di oggi? È la canzone dei vecchi amanti nella versione di Musica Nuda. Bellissima versione. Gianni, soddisfatto. C'è un quesito anche. C'è ancora... Che quesito? Valentina dice: la domanda è questa: sono più le volte che Buttafuoco ha lanciato una canzone di Battiato o che Mario Secchi ha inneggiato l'inno sovietico? Questo veramente. Dobbiamo fare il conto alla fine della nostra edizione. Alla fine della stagione. Una precisazione: non è sovietico l'inno. Sì, vabbè. Okay. L'inno imperiale. C'è la Russia. Sì, e c'è tutta una diatriba ancora tra me. Ancora una bolla. Senti qua. Mancano 18 secondi. Ci prova da 3. Oh! Oh, oh, oh! Non esiste questo! Magic Johnson, 10 secondi. Grandissimo, te lo ricordi? Dan Peterson, grandissimo telecronista. Quando faceva "Mamma butta la pasta". Eravamo piccoli. Vabbè, insomma, Steve Ballmer è l'ex CEO di Microsoft. Ha acquistato la squadra dei Los Angeles Clippers, squadra di basket, una delle più importanti in America. È stata messa in vendita, come sapete, dopo i commenti razzisti del suo proprietario Donald Sterling, che attaccava un personaggio che abbiamo citato poco fa, cioè anche Magic Johnson. A dire il vero, l'ha venduta poi la moglie, che non aveva neppure bisogno del parere del marito, e questo capita in molte famiglie. Ballmer ha pagato la squadra 2 miliardi di dollari. Un prezzo stellare, mai raggiunto. Accidente. Prima nell'NBA, un sacco di soldi scuciti perché fare che cosa? Lui, Beh, è ricchissimo, è la 39esima persona più ricca del mondo. Patrimonio personale 18.9 miliardi di dollari. Posso dire una cosa? Dilla. Beato lui. Noi regaliamo solo un libro a chi inventa, a chi indovina il canzoniere. Ero tornato a casa per i campi. Si era nel mezzo dell'estate, avevano raccolto l'erba e si preparavano a mietere la segale. C'è un'incantevole varietà di fiori in quel periodo dell'anno, rossi, bianchi, rosa, odorosi, teneri, trifogli, insolenti margheritine, mamano mama bianco latte con il centro giallo scuro e il loro intenso puzzo di fradicio. Mix 24 800 24 00 24 349 238 6666 l'SMS per rispondere al canzoniere. Intanto ancora un salamino. Siete prigionieri della divisione di cavalleria asiatica del barone von Ungerstein. Altro che Adenauer, altro che De Gasperi, altro che padri fondatori dell'Europa. Ieri è nata l'Unione Eurasiatica, cioè Bielorussia, Russia, Kazakistan, prossimamente il Kirghizistan e pure l'Armenia. 170 milioni di persone che sono più europei dell'Europa e con un padre fondatore come il barone Roman Unger Fürstenberg, meglio noto come Unger Khan. Ha capito che non ascolta quello che dici? No, lo ascolta. L'aveva detta prima, ma insomma l'ha arricchito. L'ha arricchito. Adesso lui ci mette però tutta intanto, la letteratura no, dentro. È il padre vedi. Fondatore che mi esalta. E sentite capito. In sottofondo, no? Sembra brina, ma è una lacrima di zar. Le lunghe spade ci donasti. Vabbè, lì c'è l'Eurasia, però... Mi chiedono se Secchi è contento della vendita del Cagliari agli americani. Finché Alessandra no. Mascia. Allora mi faccio portavoce della, diciamo così, della Vox Populi di Cagliari. Finché non vediamo la firma, non siamo sicuri. Qui. Però che, sì, in teoria sì. Cammello pagare monete. Esatto. Va bene. No. Okay. Finché, speriamo vabbè, bene. Vabbè, professor, forza Cagliari. Professor Simonelli, ieri sera il canone dov'era? Il canone, a dispetto di Buttafuoco, sentite un po' dov'era, sentitelo bene. Bellissima! Sei bellissima! Pazzito anche Simonelli. Anche Simonelli è andato, ci andato. Siamo giocati Simonelli. Com'è dica, che professore. L'abbiamo perso. Allora, siccome ieri Buttafuoco ha cercato di ridimensionare l'immagine di Maria Elena Boschi, preferendole un'altra donna politica, dicendola più bella sei tu, io ribadisco che sei bellissima. Cioè, allora, al di là della la Boschi è bellissima, ieri sera dalla Gruber era bellissima. Era bellissima. Ma anche bravissima o no? E perché fanno solo i primi piani? Si capisce. Perché Madonna. Su questa cosa degli orfani, degli adottati dal Congo e... rientra la freccia, si è fatto molta polemica e anche qualche eccesso di retorica, penso a Gramellini sulla stampa che ha difeso, ma in maniera un po' eccessiva. Ieri invece la Boschi è stata misuratissima, ha risposto sapendo coniugare il discorso politico con il discorso personale, raccontando dei suoi cuginetti adottati. Con grande precisione, grande pacatezza, quindi sei bellissima, sei bravissima. E soprattutto vabbè. E allora viva la Gruber, perché da noi la Boschi Gruber. Non vuol viva. Venire, non so perché l'ho invitata tante volte perché c'è il problema delle domande, si vede che siamo cattivi, c'è il problema delle domande, vabbè non importa, non vuol venire perché c'è Buttafuoco, sarà per quello, lasciate a casa Buttafuoco, prendete la Boschi, io resto bene, fuori d'accordo. Allora un altro dunque altro canone. Più che altro è quello che si prepara. Intanto devo rimediare a un errore che ho fatto in questa settimana. Dica. Ho segnalato che su Rai 5 va in onda il film di Alice Rockwacker, il primo film, sì. Corpo Celesto. Opportunamente in questa settimana, dopo il successo di Akkander, va bene. Film. Quindi allora... Rai 5, domenica in seconda serata, continua. Si rimedia anche al mio errore. Va infine, bene. Un'altra cosa voglio segnalare. Siccome lunedì è il 2 giugno, sapete che questo è un po' un mio pallino, avrà il canone chi deciderà di festeggiare il 2 giugno in maniera coerente e consona. Le cosa feste... si aspetta? Dica cosa si aspetta venerdì. Intanto c'è una fiction in prima serata su Rai 1 di ambientazione resistenziale, quindi un passettino in avanti l'abbiamo fatto, perché non si può considerare un giorno festivo come un giorno qualunque. Forse ci vorrebbe tornare a fare qualcosa anche di più strutturato, di più organico. Non soltanto. Vabbè, dica una cosa, cosa si aspetta? Cosa vorrebbe? Consigliamo Leone. Vorrei una, sapete che sono un po' la mia maniera, una di quelle serate alla maniera di Beniamino Placido. Vabbè. Intrattenimento. Non c'è quasi nessuno dei nostri ascoltatori, purtroppo, che si ricorda colta. Chi è Beniamino Placido. Come no? Sì? Io me lo ricordo bene. Va bene. Sto allora ascoltando meglio. E lo ricordo. Va bene. E non dobbiamo mai dimenticare. No, bravissimo. Grazie professore. Grazie nella, nella seconda ora, come abbiamo detto, racconteremo la storia di Guido Carli, l'ex governatore della Banca d'Italia, che è stato una figura chiave dell'economia italiana e soprattutto è stato l'uomo che ha uno dei personaggi principali che ha portato l'Italia a Maastricht, dico bene, e quindi l'Italia nell'euro. Perfetto, cura il programma, come sempre, a cura di Marina Milone.